domanda più personale. Qui la gente ha paura che, siccome ci sono tanti nightclub sulla costa tra Nizza e Monte... Non voglio neanche sentire la domanda, non mi interessa. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Immobile però può andare adesso, passa davanti, Immobile! Ciro! Immobile! Prima palla spizzata da Pellè verso Immobile, che non perdona, come sempre quando gioca con Ventura. Volevamo giocare da squadra e credo che abbiamo giocato da squadra. Abbiamo sofferto 10 minuti dopo l'espulsione di Chiellini perché dovevamo prendere le distanze. E abbiamo sofferto, però poi abbiamo anche vinto la squadra, quindi complimenti a tutti, grande partecipazione. Abbiamo fatto un altro passo avanti in 3 giorni rispetto alla Francia. Dovevamo dare delle risposte a noi stessi innanzitutto come gruppo e far vedere che quel vernissage, quella passerella con la Francia, al di là che si possa aver giocato male o bene, secondo me aveva denotato che un pochino a livello di spirito, di rabbia agonistica eravamo venuti meno, e per noi sono imprescindibili se vogliamo invece fare gara con le più forti quasi alla pari. Allora, ti è piaciuta l'Italia? Alzi la mano oppure alzi la cornetta. 800240024. La cronaca di questo istante dice che al minuto 86 Albania e Macedonia sono sul 1-1. No, non sto scherzando, perché ieri la gara è stata sospesa a 14 minuti dalla fine, gara che riguarda il nostro girone, per il diluvio universale che ha reso impraticabile, impossibile concludere la gara. Dunque, oggi si giocano soltanto 14 minuti, anzi... se ne sono quasi andati 10 minuti di questi, e siamo sempre sul 1-1, cioè il risultato di ieri sera. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Come va? Alzi la mano tu, ti è piaciuta l'Italia? Sì, l'ho vista in replica, in sintesi, perché ero a ritirare un premio a Pisa, l'altro con il di Francesco, Federica Lodi e un po' di altri amici. Però insomma l'ho vista ieri notte e mi è piaciuta la partenza, mi è piaciuta la reazione dopo la sconfitta in amichevole, sono piaciuti moltissimo i cambi, insomma sono molto contento. Sì, partita alla morte, fuori stagione, sarebbe piaciuta anche a Conte questa partita, lacrime, sudore, battaglia. Anche gioco e Verrattino che si è preso in mano la nazionale, perché come è stato da molti oggi sottolineato, vabbè, non lo conosciamo ancora fino in fondo, visto che in maglia azzurra non ha giocato molto per una palla o per l'altra, però ieri si è preso in mano la nazionale, ha giocato una grande partita e ha dimostrato di tenere los huevos, come dicono gli spagnoli, perché anche infortunato in inferiorità numerica ha anche combattuto in fase difensiva, ha fatto la faccia cattiva quando serviva. Mi è piaciuto molto Verratti. Guarda, non siamo particolarmente scaramantici noi, vero? Anzi, per niente. No, figurati. Ecco, io diciamo che spero e penso che ieri sia cominciata l'era di Verratti in nazionale. È stato l'uomo che nei prossimi 8-10 anni può darci tanto, perché ha la qualità tecnica enorme, perché ha la capacità di ragionamento che aveva Pirlo, con caratteristiche alla fine sono abbastanza simili, poi perché poi leggevo sui punto. Giornali simili o dice... diverse, Pierre, una mezzala o un playmaker? Lui un dice playmaker. Pur di giocare in nazionale gioco mezzala. Anche in porta, Per me è un playmaker, perché è un tipo di ruolo nel quale ne abbiamo più bisogno, con tutto il rispetto per il ruolo della mezzala, che è un ruolo importante, con le capacità di inserimento, con gli strappi, ma da quel punto di vista noi abbiamo più soluzioni. Buonaventura, ieri parlavamo con Massimo Mauro, può fare anche l'esterno, ma può fare tranquillamente la mezzala. Parolo è un giocatore che può interpretare il ruolo di mezzala magari con una maggiore attitudine al contenimento, ma è uno che poi ogni anno i suoi 6-7 gol in campionato li fa di media, quindi vuol dire che comunque i gol ce li ha. quel ruolo lì è un ruolo più delicato, è un ruolo dove serve un grande giocatore, dove se hai un grande giocatore ti fa la differenza. Noi ci siamo goduti per tanti anni Andrea Pirlo, adesso credo che ci possiamo godere per passi. Questa è la mia idea, poi è chiaro che può fare la mezzala, la può fare la mezzala, ci mancherebbe altro, però secondo me è più strategico. Segna, più decisivo, attenzione, ti interrompo in questo istante, segna l'Albania del nostro amico Gianni De Biasi, minuto 88 e 22 secondi in questo ultimo scorcio della gara di ieri, in questa coda della partita di ieri. Segna l'Albania, gol abbastanza casuale su una punizione dalla tre quarti e con una palla che è stata spizzata in aria uccellando il portiere macedone, però è un gol pesante per l'Albania che dunque raggiungerebbe, mettiamo ancora al condizionale, l'Italia e una Spagna che vabbè, della quale mi sembra abbastanza inutile parlare, l'8-0 al Liechtenstein, no? No, siamo contenti per il mister, è chiaro che per l'Italia il pareggio sarebbe meglio, perché comunque l'Albania potenzialmente è una complicazione in più sulla strada verso la qualificazione, però insomma diciamo che il tempo per poter mettere un po' di distanza fra noi e loro dovrebbe esserci. Comunque, poi altro tema ovviamente, che poi ovviamente affronteremo è quello di Chiellini, ma c'è un ascoltatore che via WhatsApp, a proposito, 800 24 00 24, per le vostre telefonate sulla mano o la cornetta, se vi è piaciuta l'Italia oppure se non vi è piaciuta, spiegateci le vostre ragioni. Messaggi SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Uno scrive: ma vogliamo parlare di questo Chiellini che si è accorto che in Europa non è come in Italia, dove non lo ammoniscono mai? Non credo sia un tifoso juventino quello che scrive questo messaggio. Sì, questo è un tema che ieri sera imperversava sui social, ma insomma lo voglio definire una butade. Anche se in realtà qualche precedente c'è, cioè resta al di là della polemica di Campanile. Mi ricordo per esempio un'espulsione, se non sbaglio, 3 anni fa al Bernabeu di Chiellini per un intervento su Cristiano Ronaldo, una tenuta in area e poi l'espulsione per secondo giallo nel secondo tempo. Cioè che in Italia ci sia in alcuni casi, ma non parlo di una squadra piuttosto che di un'altra, un metro arbitrale diverso, questo è indiscutibile. Perché c'è, lo sappiamo, all'estero nelle competizioni internazionali la tolleranza zero verso un certo tipo di intervento. Detto questo, Chiellini chiaramente vive un periodo di appannamento, perché 2 su 2 così negative penso che non l'avesse mai fatto nella sua carriera. Io non voglio difendere nessuno, amico mio, non voglio difendere nessuno, però siamo a praticamente ai primissimi di settembre. Ha giocato gli europei, quindi ha saltato un pezzo di preparazione. Dei giocatori che sono più in difficoltà di altri, ma gli si leggeva in faccia anche dal punto di vista fisico, Dire. Infatti, no, ma sono d'accordo, non è che sia finita la carriera di Chiellini, è un momento difficile. È chiaro che Chiellini, l'altro giorno quando parlavamo della superiorità evidente della Juve su tutte le altre, Chiellini e la tenuta difensiva di una difesa meravigliosa, ma ovviamente che comincia ad avere parecchio passato alle spalle, è una di quelle spighe che si potrebbero accendere. E in questo momento ci può essere la sensazione che Chiellini sia un po' in difficoltà. In questo momento è un po' in difficoltà, secondo me recupera, perché è combattente, perché secondo me avrà sicuramente la possibilità di farlo, però è oggettivo che dietro a molte delle fatiche della nazionale in queste due partite ci sia stata proprio la prestazione individuale non all'altezza di questo che è stato un grande giocatore e che probabilmente tornerà presto ad esserlo. Non ha dimenticato di essere un eccellente difensore, questo è evidente. Intanto vi dico che sono stati concessi 5 minuti di recupero, 1 minuto e 45 già trascorso tra Albania e Macedonia. C'è un'altra occasionissima per l'Albania, ma poco fa un rigore che mi è sembrato piuttosto solare negato alla Macedonia in un finale di partita molto combattuto, gara che ci riguarda da vicino. Che piacere, Maurizio Crosetti, è un po' che non ci sentiamo. e non sai quanto fa piacere a me. Buongiorno cari. Come stai, Mauro? Ciao. Bene, tutto a posto. Dai. Stiamo cercando di smaltire questa lunga estate di fatiche che continua in un altro prossimo lungo autunno di racconti sportivi, che poi per la gioia infinita dell'inverno, dei nostri lettori, dei nostri ascoltatori, di tutti quanti, insomma. Esatto. Il sudatissimo Ventura prende e porta a casa, non con la sua Italia, ma con quella di Conte. Adesso non voglio fare polemiche, tornare a spaccare il capello in quattro, però è stata lì, come giustamente deve essere, non ancora l'Italia di Ventura, se non per quel cambio nel finale che è piaciuto a tutti e che ha pagato enormi dividendi, cioè un attaccante per un attaccante in sofferenza sotto di un uomo, Però questa è l'Italia di Conte, ma lo si vede in molti particolari. Sì, e devo dire per alcuni versi, per fortuna, perché poi alla fine l'essere squadra, aver reagito in quel modo, è una caratteristica che è proprio nel sangue di questa squadra, da Conte anche, forse anche un attimo prima di Conte, nel senso che è la caratteristica che ci ha permesso di non naufragare in una serata che aveva preso davvero una brutta piega. E quello che è poi anche la squadra del campionato, alla fine è la squadra del calcio italiano oggi, che esprime anche altro e che Ventura avrà modo di valutare, selezionare e scegliere con il tempo a disposizione, con i prossimi mesi, anche se sarebbe stato meglio in questa prospettiva di rinnovamento che Italia-Spagna non arrivasse tra un mese, anche quella sì. Sarà comunque più o meno la nazionale di Conte, certo. Che non è un insulto, assolutamente, ma assolutamente, anzi è un atto di grande intelligenza, così. ma come io ho sottolineato a tempo debito per Allegri. Sì, ma infatti stavo dicendo, l'eredità di Conte è sempre un'operazione complessa che va presa come le pentole dell'acqua con le presine, se no ti bruci. Allegri ha spostato il pentolone Conte con le presine e siccome è molto accorto, molto intelligente e anche molto capace, ha fatto la sua squadra nel tempo, andando nei risultati anche oltre il suo predecessore, o comunque non certamente indietro, anzi in Europa meglio, in campionato uguale, e quindi è riuscito a realizzare un cambiamento non traumatico. E Ventura, che è uomo altrettanto intelligente rispetto ad Allegri, è anche più esperto, uomo di mondo, di calcio, che sa come ci si muove, a parte quando parla degli avversari, ma uno scivolone glielo concediamo, e quindi anche lui vedrete che userà le presine, sposterà sto pentolone e alla fine speriamo che il campionato proponga anche qualcosa di meglio, perché la partita è lunga, il ritorno di Spagna-Italia è settembre 2017, abbiamo 12 mesi per costruire una nuova nazionale che abbia però, speriamo, ancora dentro di sé le cose migliori di quella vecchia, sì, che sono quelle che ci hanno permesso di vivere un buon europeo e di non perdere o non pareggiare in Israele. Allora, ci fermiamo un secondo per il traffico, state con noi. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Allora, sapevamo di essere, che dovevamo essere sempre concentrati, perché non era un campo facile, la minima possibilità comunque i tifosi davano modo alla squadra avversaria di ricaricarsi, e il gol, quel gran gol che ha portato sul 2-1 poi ha dato carico a loro, però abbiamo ancora dimostrato di essere una squadra che combatte fino alla fine, nonostante un uomo in meno, però anche oggi 3 punti, importante era iniziare bene. Stamattina me l'aveva detto, perché mi aveva visto bene in allenamento, mi ha detto quando fai gol e sei concentrato il venerdì e il sabato, che poi ovviamente era riferito a sabato e domenica, perché abbiamo giocato oggi, l'aveva predetto, però sono contento. A livello umano, a livello professionale gli devo tanto e quindi era il minimo che potevo fare. Abbiamo un girone complicato che purtroppo ne passa solo una, bisognava fare bene, vincere senza perdere punti e lasciare punti su questi stati che sono sempre insidiosi e pericolosi, però abbiamo giocato da squadra e abbiamo vinto. Questi erano gli autori dei nostri due gol, di due dei nostri tre gol, cioè il primo e l'ultimo, Pellè e Immobile, in mezzo il rigore di Candreva. Intanto è finita la partita dei due giorni, si è conclusa con la vittoria dell'Albania 2-1 sulla Macedonia. Il gol proprio in questa coda, anzi nel finale di questa coda, all'89esimo di Balai, su una situazione di calcio piazzato. Ha ragione Pardo quando dice forse per noi era meglio il pareggio, perché l'Albania, secondo me, in questo girone che io ho definito delle matriosche, è quella che è contenuta dall'Italia, cioè forse la terza forza del girone, mettiamola così. Pierluigi Pardo collegato con noi insieme a Maurizio Crosetti. Do subito la parola a Matteo da Firenze, dica. Sì, buonasera. Senta, io sono un grande tifoso della Fiorentina, a parte questo non c'entra niente, da parte sono molto deluso del mercato Viola e tutto, sì. Però volevo inserirmi sul discorso della nazionale, no? Io ho visto un grande Verratti ieri sera, un grandissimo Verratti, come avete detto voi, ma non ci sarebbe in modo questo Verratti, io non dico alla Fiorentina, perché ci sarebbe il modo di farlo rimpatriare in Italia un giocatore di genere, invece tenerlo sprecato in un campionato come quello francese, dove, come avete detto voi, io vi ascolto tutti i giorni, dove avete detto che anche il Paris Saint-Germain, quando vince il campionato, gli dà anche 30-35 punti alla seconda. Sì, secondo voi cosa ne pensate di questo? Rimpatriamo i piedi buoni, facciamo uno scambio. Abbiamo dato Balotelli al Nizza, ci riprendiamo Verratti. La vedo abbastanza dura, anche no, perché gioca in un grande club europeo. Dimmi, credo che sarà un pochino più equilibrato innanzitutto il campionato francese, poi penso che lo vincerà il Paris Saint-Germain, ma non credo che succederà quello che si è visto prima. Credo che un effetto Ibra da questo punto di vista verrà pagato, e poi insomma dal punto di vista sia dei budget che della dimensione internazionale di squadre che valgono il Paris Saint-Germain in Italia c'è la Juventus, me ne viene una sicuramente, viene una, sì. E poi altre che provano ad avvicinarsi al livello del Paris Saint-Germain. Per cui insomma l'ascoltatore ha ragione, sarebbe bello avere qui Verratti, però purtroppo non siamo più l'Italia che dominava negli anni 90 e quindi poteva tranquillamente trovare offrire a Verratti poi, soluzioni chiaro, molto intriganti. Ma poi, come ti ho detto molte volte, guarda, io non provo tutto questo gran dolore nel vedere i giocatori italiani che giocano in grandi club stranieri come il Paris Saint-Germain. Titolare del Paris Saint-Germain fa la Champions League, una Champions League d'avanguardia da ormai molte stagioni, non è messo in discussione, è cresciuto anche in Francia, quindi non è che mi straccio la maglietta perché Verratti non gioca nel nostro campionato. Certamente sarebbe un campionato più ricco. Tra l'altro proprio quello che ha fatto a livello europeo, poi dite voi se è causa o conseguenza, cioè se è stato così bravo in Europa perché è bravo, oppure se è cresciuto anche perché ha avuto la possibilità di giocare quelle partite in quel club, secondo però, insomma, me non gli ha fatto male il Paris Saint-Germain, non gli sta facendo male. No, Maurizio, cosa ne pensi? Beh, penso che Verratti potrebbe tornare in Italia se non solo i cinesi ma gli sceicchi venissero a comprare qualche nostro club, destino che non auguro peraltro a nessuno dei nostri club, o meglio lo augurerei dal punto di vista finanziario, ma dal punto di vista così della storia, della tradizione, delle radici eccetera, io penso che sia meglio che si vada avanti così anche con qualche Verratti in meno, ma con un imprinting forte di quello che è sempre stato il nostro calcio, che pure deve sicuramente tirarsi un po' su e trovare nuove risorse. Beh, per intanto accontentiamoci, e non è poco, che Verratti possa essere, speriamo, guarito e abile arruolato per la nazionale, e il giocatore più intelligente del nostro calcio, il più prezioso in quel ruolo, forse l'unico. Dopo Pirlo è l'unico che lancia il pallone in quel modo, e c'è anche Bonucci, peraltro, che secondo me, possiamo dirlo oggi, è il più forte centrale al mondo. Ieri ne ha fatto un'altra, ieri ne ha fatto secondo un'altra. Me non ce n'è un altro così che al lancio lungo che avevano Scirea, Franco Baresi e Beckenbauer, non bestemmio, guarda che nomi tiro fuori, uh-huh. E ha la puntualità difensiva dei grandi stopper puri. Quindi un giocatore incredibile. E poi Verratti sta crescendo, ha ragione Pierluigi, sicuramente la Francia lo ha maturato, come sempre succede quando ti misuri con quelli bravi, con quelli più bravi in ogni mestiere, diventi un po' più bravo anche tu. Senti, sembra proprio, restiamo in argomento difesa, perché abbiamo tentato, ma non nemmeno tentato, siamo andati su una difesa d'ufficio non richiesta di Bonucci. Invochiamo le attenuanti generiche per tutta la nostra difesa e per Bonucci per Chiellini, scusa, in particolare, ma avrei capito benissimo che mi riferivo a lui. Sì, beh, io so benissimo, conoscendo Chiellini, che è una persona anche molto intelligente, oltre ad essere un ottimo giocatore, che sa benissimo che cosa è successo e sa come non farlo possibilmente accadere più. E come tutti i muscolari, come tutti i generosi, è un calciatore che ha bisogno, tutti i difensori, muscolari e generoso, e generosi è un calciatore che ha bisogno della condizione fisica perfetta o quasi, altrimenti arranca. È un giocatore che ogni tanto ha delle amnesie, anche quando è in condizione perfetta, concede mediamente mezza sciocchezza partita, qualche volta una, qualche volta il fallo forse inutile, il rigore, qualche altra volta qualche cartellino, ma sull'altro piatto della bilancia c'è questa sua tenacia, questa sua generosità all'inglese. L'ho sempre immaginato al centro di una difesa, non so perché, ma io lo vedo lì, cioè per me lui è un grande centrale da calcio inglese, ruvido ma in qualche maniera, come dire, anche sportivo in un certo senso, è cattivo quando picchia, però è anche, accetta lo scontro aperto, è una persona anche molto generosa nel sociale, e non c'entra niente con ieri sera, ma c'entra col personaggio, quindi non c'è bisogno di crocifiggerlo. Vuoi scomodare l'idolo di Pardo? Vuoi scomodare l'idolo di Pardo? Tony Adams. Ma infatti una roba così, la famiglia Adams, poi tra l'altro che in tribuna lo seguiva sempre, era bellissima, sì. La mano che applaudiva da sola, sì, che bei momenti. No, è inglese, è assolutamente inglese per caratteristiche, anche proprio per fisico, per incedere, ed è esattamente quello. Io penso che è un classico giocatore che tanti allenatori vorrebbero avere in squadra, perché credo che sia un esempio di comportamento, di forza, di attitudine. Poi quando sbaglia, sbaglia, e ovviamente ha sbagliato due volte, e sicuramente quello che dice Cross è giustissimo. È chiaro che quando sei un giocatore muscolare, ma questo non riguarda soltanto lui, riguarda tanti giocatori, quando sei un giocatore muscolare, se non sei al meglio, se non sei al meglio paghi. Quindi l'unica possibilità che ha Chiellini è mettersi sotto col lavoro, tornare a una condizione fisica, migliore, ma ripeto, lo sa benissimo. Ma sì, ma certo, ma diciamo anche una cosa normale. Calciatore abbastanza particolare, visto che siamo entrati su questo argomento, calciatore che studia, che ha continuato a studiare tipo negli anni di carriera, non perché gli altri calciatori non studino, ma insomma è chiaro che quando sei un calciatore professionista, magari a 25-27 anni, non pensi alla laurea, non pensi a... E lui invece questa cosa ce l'ha sempre avuta, molto, ha una sensibilità secondo me particolare, molto spiccata, che poi magari in campo certe volte invece non si vede, perché è un giocatore muscolare e qualche volta appunto ruvido, ma che poi in realtà invece nel privato mi sento di poter dire che è abbastanza al contrario. No, ma chiaramente lo conosciamo ormai da anni, il signor Chiellini, che ha avuto comunque la fortuna di essere calato in quella difesa che ne esalta le caratteristiche. Ha ragione da vendere Crosetti, come quasi sempre accade. Ciao Maurizio, grazie. Ciao a voi, alla prossima. Ciao Maurizio Crosetti, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24, il numero verde. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzoni in redazione. Vi ricordo per la cronaca che l'Albania, girone dell'Italia, ha battuto 2-1 la Macedonia con questo gol nel finale della fine della partita di questi ultimi 14 minuti che sono stati giocati oggi. Gol di Balai all'89esimo per la felicità del nostro amico Gianni De Biasi. Pierluigi Pardo in linea, Andrea da Modena, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per la convocazione. Io, niente, siccome ho avuto un piccolo passato da allenatore e da dilettanti, per me nella questione tra Chiellini e Ventura il problema è stato Ventura. Perché? Mi spiego. Il giocatore mio deve avere un momento di forma e su quello devo valutarlo. E in più la partita in corso devo analizzare cosa sta succedendo. Allora, avendo già Chiellini che ha dimostrato di non essere proprio a posto, l'abbiamo visto con la Francia, mi passa un primo tempo dove mi procura un gol e mi fa un fallaccio inutile che poi gli crea il primo cartellino giallo, io nel secondo tempo lo faccio sedere e faccio giocare il buon ex Juve, Ogbonna, esattamente. Dopodiché, anche poi perché ho un proseguo di una partita, sto vincendo... Ho dei problemi con Verratti, da quello che mi risulta, ho qualche problemino con qualche un altro, io voglio rimanere in 11. Questo è il mio concetto. Per me l'errore è stato Ventura. Poi è chiaro che una difesa così, un Chiellini, un Barzagno, eccetera, eccetera, cioè fa difficile a muoverli. Sì, poi ci sono anche, ma è una considerazione corretta, Andrea, una considerazione interessante. Poi ci sono altri aspetti collaterali, per esempio Verratti che non sta benissimo, alla fine ha dovuto. È dovuto rimanere in campo fino alla fine perché la situazione che si era creata era quella e altri cambi erano necessari. Però questo è un rilievo, può essere che insomma Ventura ci ripenserà sopra, ci rifletterà. No, Pierluigi Pardo, ma mi chiedono se sei al mare, perché si sente il mare sottofondo. Questo è bellissimo, no? Questo è bellissimo. No, volevo dirti questo, che in realtà io non sono molto d'accordo, nel senso che chiaramente col senno di poi sappiamo come è andata a finire e quindi vabbè, certamente visto come è andata era meglio cambiare Chiellini, forse era meglio non farlo proprio giocare se mi passi la provocazione, no? Però insomma, non vedo questo tipo di situazioni frequentemente negli stadi della Serie A. Cioè, non è che se un difensore centrale viene ammonito viene subito sostituito, e soprattutto a grandi livelli secondo me si cerca di dare fiducia al giocatore, perché sostituirlo sarebbe una bocciatura abbastanza, sì, sì, abbastanza clamorosa. Detto questo, poi è ovvio che con senno di poi, per come è andata, ha ragione l'ascoltatore. Però dico che forse sapendolo prima è chiaro. Un conto è il calcio minore, con tutto il rispetto, dove magari puoi permetterti con più serenità di fare una sostituzione di questo tipo senza avere nessuna grande ripercussione di carattere psicologico. E un conto è, insomma, sarebbe stato abbastanza clamoroso vedere che lì. No, ma anche perché non dimentichiamo che è uno di quelli di quel gruppo che ha in mano il mazzo della squadra, no? Buffon, Bonucci, che lì, insomma, la difesa, i De Rossi, i senatori di questa squadra, che sono quelli che stanno aiutando, io credo, molto Ventura in questo suo approccio alla nazionale. Ciccio Graziani, buongiorno, come stai? Eccomi qua, buongiorno a tutti, bene, grazie. Io volevo parlare invece anche di attaccanti, perché per me ieri il migliore in campo non è stato Verratti, ma il tanto vituperato, spernacchiato Pellè, che ieri è addirittura tornato sul rigore sbagliato contro la Germania, perché ancora se lo sogna di notte. Candreva su rigore ha più qualità di me, indubbiamente. Purtroppo capita di sbagliarlo, se dovesse essere... di nuovo le fasi finali, c'è la possibilità e devo tirarlo, io ripeto, ho la personalità per farlo, però come ho già detto, se capitano queste partite c'è giocatori che hanno più qualità di me nel battere rigore, non lo dimenticherò mai, però cerco di essere positivo e di cercare di dare altre gioie che permettono poi di limitare ciò che ho fatto. Dunque questo era Pellè, che ieri ha segnato il suo nono gol in 19 partite in nazionale. Poi possiamo dire quello che vogliamo, che è sgraziato, che non è un fuoriclasse, che è andato a giocare in Cina, che ha sbagliato le gole con la Germania, diciamo quello che vogliamo. Però insomma non so quanti ce ne sono in giro di centravanti italiani eleggibili per la nazionale con quelle caratteristiche. Ciccio. Sì, la fotocopia potrebbe essere Pavoletti, ma insomma è ancora tutta da verificare. Pellè in questo momento è una certezza davanti, perché ti dà un grandissimo punto di riferimento, è bravo nel gioco aereo, è bravo nel tenere sulla palla, fa salire la squadra. Tra l'altro io mi aspettavo che dall'alto anche della sua responsabilità si fosse poi assunta la possibilità di dire a Candreva: guarda, me lo lasci tirare questo calcio di rigore, visto che aveva già fatto il gol dell'1-0, potrebbe essere l'occasione giusta per ripresentarsi di nuovo davanti a una responsabilità così importante, perché non è tanto il rigore sbagliato in una realtà importante come quella degli europei, è il modo come lui si è presentato. L'errore è stato soprattutto quello di, tra virgolette, sbeffeggiare il portiere, un portiere poi importante come Neuer, per poi sbagliarlo in quella maniera. Se lui ieri avesse avuto il carattere, la personalità di dire a Candreva: guarda, siccome ho già fatto cosa, sono tranquillo, me lo lasci calciare, e poi magari calciandolo l'avesse anche sbagliato, perché lo butta fuori o perché il portiere glielo fa, non sarebbe successo assolutamente niente. Io facevo il tipo perché lui facesse questo tipo di comportamento ieri. Dura Ciccio, dura sul 1-0, dura, prima di qualificazione europea. Però se giochi a questi livelli è la responsabilità te la devi prendere, a maggior ragione quando hai fatto un gol. Era l'occasione giusta per dire, per togliersi la scimmia dalla spalla. Sì. Mi ripresento, poi lo posso anche risbagliare, però lo sbagli in un modo diverso, perché i rigori non li sbaglia mai chi non li tira, chi l'ha tirati sa che è sicuro. Su questo è sicuro. Io infatti ho sempre confessato il massimo rispetto e la totale ammirazione, il totale amore per quelli che vanno a tirare rigori, specie sono importanti. Sei d'accordo con Ciccio, avresti tirato? Pronto? Pronto? Ah, sì? Scusami, ero pronto? Io. No, io dico che l'idea di Ciccio è giusta, secondo me, no? Nel senso che comunque era un'opportunità, poi aveva già tirato e aveva già fatto il gol, quindi era abbastanza tranquillo e abbastanza sereno. Però detto questo è incomparabile la differenza che esiste fra quel rigore sbagliato in una partita così importante con la Germania e il rigore di ieri. Cioè, io non credo che Pellè abbia un problema con i rigori, o non credo che Pellè abbia un problema di carattere psicologico. Penso che l'abbia superato, ha dato dimostrazione ieri nella prima partita ufficiale dopo quel maledetto Germania-Italia di essere entrato bene, e questa è una buona notizia per lui e per tutto il calcio italiano. Sì, poteva tirarlo, ma secondo me in ogni caso non avrebbe riprodotto lo stesso livello di adrenalina, di tensione di quella notte, per cui insomma, perché questa macchia possa essere cancellata ci dovrà essere una situazione simile o una partita altrettanto importante nella quale Pelé fa qualcosa di clamorosamente utile per la nazionale. Detto questo, sono d'accordo con te, 9 gol in 19 partite è un attaccante importante, poi è anche un punto di riferimento per quello che si vede meno, cioè per la fase di non possesso, un giocatore che aiuta molto la squadra. Ha fatto una partita fisica pazzesca, ha fatto una partita dal punto di vista fisico, il solito Eder lo conosciamo, però è una struttura diversa, ma secondo me Pelé ieri ha giocato una partita fisicamente pazzesca, Ciccio. Pelé è un grande giocatore, è una frase che potrebbe essere usata contro il Pelé è un giocatore molto utile. Molto utile, con dei numeri in nazionale importantissimi, era titolare con Conte, è titolare con Ventura e non è un caso. Alternative possibili, Ciccio Graziani? Perché adesso, insomma, ruolo di centravanti puro, possiamo dire quello che vogliamo su Pelé, compreso il fatto che è andato a giocare in Cina, quindi è un po' lontanuccio, gioca in un campionato difficilmente probante. Certo. Però 9 gol in 19 partite, lavora per la squadra, è uno che sta al suo posto, non si lamenta mai, è felice di esserci. Alternative, non so, Zaza, Destro, Pavoletti. Sì, ma le alternative possono essere quelle che abbiamo detto, quelle che sono adesso, c'è Immobile, c'è Zaza, ci può essere Pavoletti, che assomiglia moltissimo a quel tipo di giocatore. Quindi l'alternativa secondo me di Pelé in questo momento, considerando la struttura fisica, è Pavoletti. Poi abbiamo delle speranze, una su tutte è Berardi, abbiamo dei giocatori, Belotti, però come struttura fisica e come tipologia di calciatore credo che in questo momento Pavoletti rappresenti il sostituto più ideale. Io non voglio dimenticare Destro, però, perché secondo me rimane comunque un gran giocatore che sia un po' così perso nella nebbia. Adesso gli vogliamo tutti bene, però in questo momento credo che non sia nella mente di Ventura, ci sono altri calciatori in questo momento, a meno che quest'anno Destro col Bologna, visto che ha iniziato anche bene, non faccia cose importanti, allora può essere ripreso in considerazione, altrimenti mi sembra che insomma in nazionale ci siano delle alternative in questo momento che sono prese più in considerazione rispetto a lui. Fermiamoci un attimo per il traffico, torniamo subito, chiudiamo con Ciccio Graziani e Pierluigi Pardo. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Tutti convocati. Io ho ancora una cosa da chiedere a Ciccio Graziani, la sua valutazione sulla prima mossa davvero venturiana di questo inizio di cammino per Giampiero Ventura alla nazionale, cioè quel cambio attaccante per attaccante alla fine, che quando pochissimi l'avrebbero fatto. Sì, no, è vero, ma lui si fida molto e conosce le qualità di Immobile, e poi Immobile, a dir la verità, sembra meno veloce di quello che poi in effetti è, perché sugli spazi ampi, quando prende palla, anche con la palla in corsa, ha una discreta velocità e mette in difficoltà spesso le difese avversarie, come è successo ieri in quelle poche occasioni che lui è entrato. Quindi, conoscendolo bene, credo che fosse un cambio che lui si sentiva di fare, l'ha fatto e gli è andato veramente bene. Poi è un suo pretoriano, un suo giocatore, un suo uomo, è quello, certo, che lo ha restituito, gli ha regalato, certo, la stagione più bella della carriera, quindi sono anche molte altre ragioni. E tra l'altro ieri, dall'intervista che ha fatto a fine partita, lui si aspettava di giocare sicuramente uno scampolo di partita, perché ha detto Ventura mi aveva visto bene già in settimana, mi aveva parlato e mi ha detto stai caldo perché potrebbe toccare anche a te, quindi era come se fosse già in partita nonostante fosse in panchina lui. Grazie Ciccio! Un abbraccio a tutti voi, ciao! Ciao, ciao, ciao! Pierluigi Pardo, che però secondo dimmi. Me la vera cosa da sottolineare è l'importanza tattica e psicologica del cambio, dell'ingresso in campo di Immobile, della mancata rinuncia a un attaccante, perché questa è la... Per me ieri ha fatto tre cambi perfetti, a parte il primo che era abbastanza scontato. Il primo era obbligatorio. Per riequilibrare ovviamente il reparto difensivo dopo l'espulsione. Gli altri due sono due cambi top, perché insomma l'ingresso di un esterno però con maggiore capacità di copertura è una prima scelta logica e positiva, ma soprattutto la decisione di piazzare Immobile, cioè di tenere comunque un giocatore capace di tenere alta la squadra, è un grande segnale di forza. È un po' come famosa la cosa quando cominci a sciare, no? Che ti dicono che ti devi portare il peso a valle, sì. Il peso a valle, che è una cosa che chiaramente va contro l'istinto, però sappiamo spesso che le squadre quando sono in difficoltà, anche 10 contro 11, se non hanno questo istinto di provare comunque ad appoggiarsi a un attaccante che le faccia risalire, poi finiscono per essere schiacciate col passare dei minuti. Quindi sì, chiaro. È un segnale anche che mandi agli avversari, insomma. È un segnale che mandi agli avversari, un segnale soprattutto che funziona, chiaramente a patto poi che lì in mezzo si riesca a tenere, perché è ovvio che poi il rischio è quello di andare un po' in sofferenza in mezzo al campo. Ma devo dire che ieri, ripeto, la sofferenza di ieri è una sofferenza che nasce da piccoli errori, o meglio, grandi errori, ma individuali, non certo da... Sì, no, chiaro. Non certo da errori di disposizione o tattici di questa natura. Marco, buongiorno. Buongiorno e complimenti. Grazie. Niente, volevo dire una prima cosa, se c'è News Open, fare i complimenti a Lorenzi, perché come paga il lavoro di una persona che è venuta dal basso, ma lavorando sodo è riuscita a tenere testa al numero 2 del mondo. Sì, e poi ne parliamo. Abbiamo già un appuntamento più tardi per parlare di US Open. E poi la seconda cosa sulla nazionale, anche lì mi sembra una buona nazionale, una nazionale di persone abbastanza quadrate, volenterose, senza magari i vecchi dissapori, quelle gente che non era da Balotelli, che creava una confusione, però il talento assoluto è Berratti, ieri si è visto anche nel momento critico, lui riusciva a gestire il pallone, prendere punizioni, insomma un vero talento. Con Marchisio quanto aumenta il livello secondo voi di questa nazionale centrale? Marchisio è importante, Marchisio è importante. Marchisio è un giocatore estremamente importante per la nazionale così come per la Juventus, perché è uno che ha delle capacità di inserimento che altri nostri centrocampisti non hanno. Ad esempio Parola è molto bravo ad inserirsi, a colpire di testa, però Marchisio è diventato proprio quel tipo di incursore. Piuttosto, Pierluigi, i nomi di destro che ho fatto prima a Ciccio Graziani, io in destro credo ancora, al di là di tutto, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto moltissimo, poi è stato un divago per varie ragioni, lo teniamo in considerazione. Ha avuto gli infortuni che lo hanno molto condizionato, ha avuto, secondo me, ha goduto di non ottima stampa, per così dire, nella sua esperienza romana, nel senso che è passato come un giocatore che fosse... Che non avesse la stessa capacità, lo stesso killer instinct dei grandi attaccanti, no? Poi alla fine, se guardiamo i numeri, al netto degli infortuni, non è andato male destro. No. Però è stato percepito, la sua esperienza a Roma è stata percepita da molti come un fallimento, e quella doveva essere chiaramente invece la svolta della sua carriera. Però è un buon giocatore, certo, ha ragione Ciccio, deve tornare ad essere un giocatore. E Balotelli cosa dovrebbe fare per tornare nei radar? Balotelli però è diverso, cioè Balotelli ha dei colpi che ormai non si vedono da parecchio tempo, talmente abbaglianti che gli serve di meno. A destro serve fare una stagione da 15 gol con una grande continuità, a Balotelli serve riuscire a fare il giocatore di calcio, ecco, di 4-5 cose importanti. Balotelli da questo punto di vista però ha un'altra sfida davanti a sé, che è la sfida che non è riuscito a compiere negli ultimi anni, cioè diventare un giocatore di calcio, appunto, da 38 esatto. partite all'anno, diventare un punto di riferimento per una squadra, qualcuno su cui ti puoi fidare, perché poi i colpi estemporanei fino a un paio d'anni fa ce l'hanno sempre avuti. Balotelli è quello che in semifinale contro la Germania nel 2012 ha abbagliato il mondo. È stato distrutto dal mondiale. Adesso non voglio che farlo passare vittima, però è quello uscito nel modo peggiore in tutta quella spedizione. Sì, è quello che più ha risentito del peso del mondiale, nella maggior parte per colpa sua, e questo sia chiaro. Però è un giocatore che è stato distrutto da quell'esperienza. Luca, salve, dica. Purtroppo la partita ieri sera non l'ho vista in quanto stavo facendo io allenamento. Pazienza, ce ne sono delle altre. Sono tifoso del Torino, però sono contento che Ventura se ne sia andato, perché trovo giusto dopo 5 anni un allenatore cambi. Sono contento per Ventura che abbia cambiato in nazionale, quindi si è cambiato salendo, non scendendo. Però però sono dalla parte di Ventura quando c'è sempre questa diatriba con Conte, basta, cioè, tirare fuori anche ancora un porcone adesso se qualcuno viene a dire una squadra di contro, la squadra di contro, ok, da allenatore so che tutto ciò che è già stato fatto prima, ma lo tengo, lo prendo per buono, e allora Allegri, Luca, cosa deve dire, cosa deve dire Allegri, che io dico ancora adesso che è la squadra di Conte? Io sono nato nel Torino, quindi Allegri non gli dico proprio niente. Vabbè, questo per ragioni di partito, però il caso di Allegri è veramente indicativo di come, ma questo siamo anche noi giornalisti, alzo la mano anch'io e mi metto fra i colpevoli, perché spesso diamo delle etichette che sono etichette esagerate. Allegri era arrivata alla Juve come se fosse un brocco, invece era uno dei pochi allenatori, forse l'unico quell'anno, che aveva vinto il campionato italiano ai nastri di partenza della Serie A, e ha dimostrato, però ci è voluto del tempo affinché ci fosse la consapevolezza che Allegri ci aveva messo del suo. Nella sua Juve ci è voluto del tempo, e per Ventura è lo stesso discorso. Ventura adesso dovrà dimostrare che è bravo, che è bravissimo, e ci sarà comunque qualcuno che dirà che comunque i meriti sono di chi l'ha preceduto. Ma perché da questo in qualche modo è anche un merito di chi l'ha preceduto, eh? Cioè, stiamo parlando di un grande allenatore, Antonio Conte è un grande allenatore, però non c'è dubbio. L'etichetta è un po' conta, però deve anche portare un po' di pazienza, perché è chiaro che questa è la sua nazionale, è chiaro che avrà modo di costruirla. L'altro giorno però, quando ha detto basta con Conte, io credo che dovrà rassegnarsi a sentir risuonare quel nome ancora un po'. Lo sa anche lui, ma ieri contava il campo, ne parlavamo 24 ore fa, e sul campo la nazionale ha risposto, quindi per merito di Ventura e ovviamente soprattutto dei giocatori, però ha risposto, quindi questa è la cosa più importante, che gli consentirà secondo me di approcciare la prossima partita, che ovviamente non è banale, ed sono d'accordo con Crosetti, è un peccato, non è il massimo per noi che arrivi così presto, anche se pure la Spagna ha cambiato in panchina, quindi anche la Spagna si sta rinnovando. Però è chiaro che il 6 ottobre sarà una data cruciale. Sì, chiaro. Pier, grazie. Ci sentiamo domani. Ciao, domani, Pierluigi Pardo. Noi adesso ascoltiamo insieme il GR. Ciro da Monza e Andrea da Brescia sono. No, riesco a parlare con Ciro? Dai, sì. Ciro, buongiorno. Mi hanno dato il permesso. Grazie. Permesso speciale, dica. Buongiorno a voi, grazie per la convocazione. Da juventino dico che Giorgione è così. Io volevo chiedere a voi una valutazione sulla posizione di Buffon. Sì, sul gol preso? Fuori dai pali. E aveva tutto il tempo per leggere meglio quel grande gol che comunque sì, in parte, Jolly. Può essere vero. Secondo me è stato bravissimo l'israeliano a calciare in quella maniera. Buffon è andato a chiudere lo specchio. Probabilmente l'unico modo di superarlo era pennellare la palla in quella maniera. Possiamo discutere su due passi avanti e due passi indietro, però secondo me bisogna dire che in quel caso è stato più bravo l'avversario di quanto non abbia sbagliato Buffon, a mio parere. 800 24 00 24 è il numero verde, subito dopo il GR, e qui è perché arrivano le pagelle del maestro Bartoletti. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Maestro Marino Bartoletti, buongiorno. Buongiorno, sono sull'attenti in questo grandissimo giorno, perché il 5 settembre del 1960 Nino Benvenuti vinse le Olimpiadi di Roma. Nino Benvenuti, uno dei sette pugili italiani a vincere medaglie nelle 10 specialità del pugilato di allora. Quest'anno quando il pugilato italiano era qualcosa di veramente importante e memorabile. Gli venne assegnato il premio come miglior pugile di quelle Olimpiadi davanti a un signore che si chiamava Cassius Clay e che vinse 10 minuti dopo di lui. Senti, io ti voglio regalare un'altra, ti voglio invece regalare un brano di alcuni tuoi amici su altri due grandi personaggi del nostro sport. Thank you. bar, tante chiacchiere malinconie, mentre qualcuno urla quattro caffè. Ma guai a squalcirmi bandiere e passioni, meglio parlare di donne e TV. Gaetano e Giacinto sono due tipi che parlano piano, anche adesso, adesso che sono lontano, ma in questo frastuono è rimasta un'idea, un eco nel vento, fa che ti escirea. Bella Marino, gli stadio, pensa che... Ma tu segui il mio profilo Facebook, però... Io seguo con attenzione il tuo profilo Facebook, seguo con grande attenzione il tuo profilo Facebook, ti rubo le idee, lo dichiaro pubblicamente, e ti rubo anche gli spunti musicali. E tu sai perfettamente come alcuni trogloditi della rete hanno trovato anche il modo di dividersi su questa canzone, dedicata a Facchetti e a Scirea. Poveracci, veramente. Io, guarda, quella cosa l'ho scritta di istinto nella notte fra il 3 e il 4, cioè esattamente nella notte che divide l'anniversario della morte di Gaetano dall'anniversario della morte di Facchetti. Ho sperato che almeno in quella notte le persone piccole, meschine, si sentissero veramente inutili davanti all'immensità di queste due persone, che qualcuno ha ancora il coraggio, nel caso di Scirea, di insultare negli stadi, nel caso di Facchetti di diffamare in altre occasioni. Ne ho ricordato un episodio di cui in qualche modo fui testimone, cioè quando Facchetti, la vigilia del Mondiale di Argentina, di fatto inamovibile capitano storico di quella nazionale, cioè al suo quarto mondiale consecutivo, si tolse la fascia, la diede praticamente a Zoff, con cui aveva vinto l'Europeo del 68 dieci anni prima, e disse: "Vecchio, il futuro è di Gaetano", e lui si adattò a seguire come capitano, non giocatore, con i 22 giovani compagni in Argentina, dando anche in quel caso un sostegno e una prova di lealtà assolutamente irripetibile. Di che parliamo? Ah, il testo della canzone è di Andrea Mingardi. Beh, canzone splendida comunque. Inutile dare un voto, perché sarebbe... No, vabbè, dal 10 in su. Mingardi, anche se qualcuno diceva 10 non si dà neanche a Maradona, io glielo do, insomma. Facchetti a Scirea 10 si dà a prescindere. A prescindere, hai ragione. Ascolta, andiamo sul prosaico, sulla cronaca, con un tuo giudizio. È fatale, no? La cronaca di queste ore, i primi tre punti di Giampiero Ventura. Siamo sulla strada giusta, perché c'è disponibilità, c'è conoscenze che stanno aumentando, consapevolezza, ma soprattutto contro la Spagna ci sono, mi auguro, o meglio, con sicurezza ci sono 4 partite in più di campionato, e questo significa una condizione migliore, perché noi stiamo pagando un po' questo anche. Giocavamo in Israele, è vero, è stata una partita molto fisica, è vero, abbiamo sofferto, è vero, però io una buona sufficienza a questa Italia la do. Sì, sì. Guarda, Carlo, io ho sofferto per Ventura, perché siamo più o meno coetanei, perché suda come me quando vado in bicicletta. Ho un po' trepidato per lui, perché quando l'ho visto sbagliare un po' di cose nelle conferenze stampa che precedevano questa partita, e sinceramente ho pensato: mamma mia, quella poltrona, quella panchina va a finire che fa male persino a un grande navigatore come lui. Ho temuto veramente che, per sfortuna, lo shuttle Italia esplodesse sulla rampa di lancio, perché se andava male contro Israele poi non so da dove avremmo potuto ricominciare. È andata bene, è andata meritatamente bene. Ho sentito quello che avete detto prima, lasciamo stare Conte, qui c'è del nuovo, Antonelli l'ha convocato lui, voglio dire, non è che sia stato decisivo, però insomma ha fatto delle cose importanti. Pellè lo abbiamo ritrovato, rigenerato, e di Verratti cosa vuoi aggiungere? È chiaro che deve essere lui l'atomo attorno a cui si deve costruire tutto quanto il progetto azzurro dei prossimi, speriamo, come minimo 2 anni. Anche se, dicevo, paradossalmente è un giocatore che in azzurro ha 23 anni e, nonostante sia titolare a diverse stagioni del Paris Saint-Germain, non conosciamo ancora, per un motivo o per un altro. Sì, guarda, ti ho seguito prima quando hai detto lasciamolo lì perché forse ha delle esperienze più importanti, resta il piccolo provinciale rammarico che se fosse rimasto in Italia, e il Napoli, come sai, è riuscito a non comprarlo, e questo mi dispiace, forse avrebbe avuto una maturazione diversa. Adesso però il leader è lui, adesso la speranza è lui, adesso il Pirlo è lui, ma è molto riduttivo paragonarlo a qualcun altro. Adesso, ripeto, è il core business di questa nazionale, sì, che è in mano a un gentiluomo che ha superato bene, con una sufficienza abbondantissima, questa prima prova del 9 cartina attorno al sole, e poi tireremo le somme di tutto. Sì, Marino, adesso ti voglio invece interrogare, ti voglio chiedere una valutazione su una cosa che mi ha molto incuriosito negli ultimi giorni. Cioè, siamo in astinenza del campionato, adesso torna, abbiamo visto i primi due trailers, adesso comincia la parte che è vera, che è più probante. Mi incuriosisce il fatto che, gli avversari della Juventus ci credano un po' poco nella possibilità, almeno a parole nella possibilità, quantomeno di fare lo stesso sport. Sentiamo Totti e Moratti. Ma è normale che alla fine si possono dire tante cose, soprattutto a fine mercato, però poi quello che conta è il campo. Noi dobbiamo cercare di stare più vicino alla Juve, anche se sappiamo che non è semplice, però cercheremo di darle filo alla torcia. Ma obiettivamente speri sempre, cioè nessuno se no andrebbe più allo stadio, speri sempre che ci sia un fattore sorpresa, come c'è stato in Inghilterra, perché è un fenomeno un po' speciale. Ma no, io credo che sia una passeggiata per la Juventus. Ecco, Moratti proprio passeggiata per la Juventus, gli altri. Vabbè, fanno questo lo ha fatto per provocare in qualche modo l'amore per la scaramanzia dei tifosi della vecchia signora. Ti io dici? Non so se sarà una passeggiata, ma è chiaramente molto molto molto favorita, al punto che probabilmente intimidisce gli avversari ancora prima di affrontarli, perché insomma può anche succedere addirittura che qualcuno, avendo davanti la Juventus e avendo, che ne so, una partita seria a cui pensare per la salvezza la settimana dopo, in qualche modo, come dire, rifletta su quelle che possono essere le energie da spendere. Però già sabato prossimo c'è una partita assolutamente non banale, che è Juventus-Sassuolo, fra due grandi realtà su dimensioni diverse, su piani diversi, alle quali guardiamo veramente con grande attenzione. Ora, è chiaro che la Juventus è strafavorita, perché comunque è quella che si è mossa meglio sul mercato, perché è la società più strutturata e meglio organizzata che c'è in Italia, perché è il punto di riferimento del calcio italiano. Però quel benedetto campo che ogni tanto qualcuno richiama anche in maniera un pochino rozza, insomma, fare gli scherzi è abbastanza strano. Sì, ma alla rendevolezza di Moratti vuoi dare un voto? O credi sia veramente solo questione di scaramanzia e di gufare un po' la... Credo che siano soltanto le vacue parole davanti al microfono, anche se coincidono sicuramente con alcune cose che pensa, ma in qualche modo sconfinano in quella che chiamiamo scaramanzia. Certamente vorrei sapere... Guarda, mi piace vedere addirittura nelle sue parole una critica subliminale a quello che sta facendo la sua Inter in questo momento. Sì. Non sarebbe l'abbia lasciato in buone mani, certamente l'ha lasciata delle persone, come dire, forse più generose di lui, e non è facile essere più generosi di lui, perché ricordiamo quello che ha speso per l'Inter negli anni in cui ne è stato presidente. Però insomma, prima o poi questa Inter, che ha fatto un'ottima campagna acquisti a sua insaputa, a sua di se stessa, voglio dire, la bussola da qualche parte la dovrà trovare. Allora, non so se esista ancora un possibile voto per Zamparini e per lo zamparinesimo. Ieri Zamparini alla Zanzara. Guardini è un ottimo allenatore, come allenatore di calcio, poi fuori dal campo non è ottimo. Cioè, a un certo momento uno non può, dopo due domeniche, mandare un sms e dire: presidente, non sono d'accordo con lei, voglio andare a casa. Addirittura, gli potresti pure chiedere i danni? No, gli potrei chiedere i danni sicuramente. È parecchio anche. Cioè, a un certo punto tu metti nei guai una società, una persona che sta trattando con un altro gruppo, dici no, me ne vado, no, tu un messaggio e chiedimi danni, sì, te ne vai, però mi dai soldi tu, no, io che ti devo pagare, o no? Bravo. O sbaglio? No, scusami. Esiste ancora un possibile voto? Guardi, io comincio a dare 10 a Ballardini, al mio conterraneo Ballardini, che ha licenziato Zamparini con un SMS. Era la cosa che io sognavo da una vita, sinceramente. Questo è meraviglioso. Ha licenziato Ballardini con un SMS. Ha licenziato così come Zamparini con un SMS, così come la Giuffe è stata licenziata, è stata insomma tenuta fuori dalla squadra. Doveva succedere 10 lode, tutto quello che vuoi a Ballardini. Però guardi, io do un voto alto anche a Zamparini. Dimmi come faremmo senza di lui, di che parleremmo senza di lui. Fermo restando anche il rispetto umano per l'imprenditore Zamparini, che è il dottor Jekyll del personaggio. Poi c'è un Mr. Hyde presidente di società che effettivamente si avvicina più al folklore che non ad altre cose, pur avendo dimostrato in passato grandissima competenza. Basta pensare ai giocatori che sono nati calcisticamente a Palermo, che hanno fatto la felicità di altre squadre. Però Zamparini, da cui abbiamo preso, ha preso in una recente intervista che è monogamo nella vita, e si vede che qualche valvola di sfogo poverino se la deve prendere in qualche modo. E comunque, sai, ho sempre detto che altro che Jobs Act, cioè le persone a cui dà da lavorare lui in panchina sono sinceramente molto al di là della media, quindi siamo gli riconoscenti in qualche modo. E poi qualcuno sfonda anche da Zaccheroni a Prandelli, perché lo stesso Iachini non è che... Ma tanti allenatori sono... È la legge dei grandi numeri, però. Perdonami, Marino. Certamente lui va abbastanza sulla quantità. Comunque, lunga vita a Zamparini, se no non sappiamo di cosa parlare. Come quando Biscardi faceva la campagna per la moviola in campo, se c'era la moviola in campo, poi di che parlava lui lunedì sera? Certo, infatti secondo me era più strenuo difensore dell'intangibilità del giudizio arbitrale, ci mancherebbe altro. Allora, ultimo tema, la domenica dei motori, terzo posto per Rossi e per La Rossa, in contesti diversi, non so se con lo stesso peso specifico o con lo stesso voto di Marino Bartoletti, sentiamo. Le posso dire che c'era tutta la scuderia che era pronta a vincere oggi. Poi le due Mercedes hanno avuto una gara quasi impeccabile, con l'eccezione della partenza, dove in effetti le due Ferrari sono piazzate bene. Lì ci speravo un po' quando ha visto Hamilton partire male. Sì, ma sì, detto sì questo, poi bisogna finire la gara. Hai pressione e cerchi di fare il massimo senza sbagliare quando sai che puoi vincere il mondiale, invece quest'anno ormai è quasi andato, ecco, quindi ci possiamo concentrare di più gara per gara e cercare di fare delle belle gare, delle belle lotte e cercare di vincere e di arrivare sul podio. Marchionne e Valentino Rossi nell'ordine, dai lo due stesso voto, diversi. Due allora, casi diversi. Se ci fosse il vecchio Ferrari direbbe a Marchionne: mo la smetta di fare lo sborone. Voglio dire, è arrivato proclamando al mondo che la Ferrari avrebbe rovesciato le gerarchie della Formula 1. Non ha capito che la Formula 1, e ce lo ripeto ogni tanto il maestro Turrini, ha dei tempi geologici, non si possono cambiare le cose in un anno. Sì, forse quest'anno cambieranno i regolamenti, ma in genere non sempre la Ferrari, per la verità, ha avuto la prontezza dei riflessi per rivoltare questa cosa a suo favore. Marchionne deve capire che ci vuole tempo, pazienza, che non basta mandare via l'allenatore come fa Zamparini, che ci vogliono ben altre strutture. Lui ha una fretta che nella Formula 1 non è consentita. Chiaro, questo l'avevamo capito, però mi sembra che un pizzico di autocritica l'abbia fatta, non so se anche a se stesso, dicendo che la stagione era fallimentare. Grazie di questa degnazione che ci ha fatto. Comunque oltre il 5,5 non va. Non vai. Mentre Rossi? Mentre a Rossi io continuo a dare il mio 8. Questo è uno dei migliori Valentino Rossi che noi abbiamo visto nella sua non brevissima carriera. Io sono molto arrabbiato con lui, perché mentre lo scorso anno non so se meritava di vincere il titolo, perché forse non era il più forte, eppure lo stava vincendo, avendo fatto bene all'inizio e facendo un campionato mondiale di contenimento, che poi è finito male perché sono successi alla fine gli episodi che tutti... Ma quest'anno dove ci sono 7 vincitori in 7 gare, quest'anno dove si è capito che è lui il più forte, in assoluto è lui il più forte, mi dispiace che abbia buttato via quei 2-3 gran premi, in un paio di casi anche per colpa sua, costringendolo a darsi del somaro, in questo momento invece lo potrebbero vedere veramente ai vertici di una classifica nella quale giorno per giorno ha dimostrato di non avere nulla da invidiare a Marquez, né nel corpo a corpo, né nella messa a punto della moto, né nella conduzione della gara. È il più forte di tutti, porca miseria, Ma secondo te, per chiudere, Marino, lì a casa tua nel weekend, a casa vostra, tu e di Valentino Rossi, eccetera, a Misano, potrebbe riaprire la porta del mondiale? Purtroppo non dipende da Rossi, ma dipende da Marquez. Dovrebbe accadere qualcosa di miracoloso che è più legato alle sfortune di Marquez che non alle fortune di Rossi. Grazie Marino. Un abbraccio, però tocco abbraccio. Ferro, tocco, non so se c'è ancora ferro nella moto, c'è solo carbonio, ma se c'è un po' di ferro lo tocco. Ciao Marino, un abbraccio a Marino Bartoletti, come sempre. Andrea, eccoci qua. Buon pomeriggio, grazie di avermi convocato. Grazie a lei. Volevo chiedere, allora, a livello, diciamo, di fiducia, sinceramente, passare da un personaggio come Conte a uno come Ventura È difficile, ma volevo chiederle adesso con, un po' ironicamente, ma non le sembrava un po' ingessato? Era sempre a braccia concerte, è veramente l'opposto. Beh, Andrea, non, si riferisce al personaggio per come vive la partita, no? Con Conte che si arrampica sulla panchina, con Conte che praticamente entra in campo a giocare, che calcia la palla quando è ancora in gioco, come abbiamo visto fare agli europei. È chiaro che sono persone diverse, hanno un'età diversa, un modo diverso di vivere la partita, sono comunque due grandi o comunque come minimo eccellenti allenatori. Sul modo diverso di vivere la partita non c'è discussione, anche a me. Sono d'accordo con sposo la tesi di Bartoletti quando dice che abbiamo in qualche modo siamo stati in apprensione, no? per Ventura lì tesissimo, tutto sudato fino al gol di Immobile, in cui ha scaricato la sua gioia non arrampicandosi sulla panchina ma facendo i pugni verso il cielo di Haifa. Allora, chi farà i pugni verso il cielo di New York nel tennis? Ce lo dice Vincenzo Martucci invece. Ciao Vincenzo. Buongiorno, come va? Ciao. Benissimo, e tu? Sì, siamo in apprensione per la nostra Roberta. Roberta fa venire proprio voglia di fare per lei, sembra una figlioletta, la ragazza della porta accanto, sempre così piccolina, sempre qualche problema, adesso c'è il problema al tendine. Comunque, problemi fisici e problemi Kerber alle 18. Di età, sì, questa Kerber che obiettivamente sulla carta non è favorita, è strafavorita. Però abbiamo visto l'anno scorso cosa ha combinato Serena Williams. Insomma, il tennis è con la Vinci. Certamente il tennis è con la Vinci e noi lo siamo pure. Nadal invece è sull'aereo verso casa e questo è abbastanza singolare. Ma no, non è singolare. No, secondo me era preventivabile. E uno dice così perché ha giocato comunque una partita che non si aspettava, è arrivato abbastanza avanti. Ha perso con Puglia, che sulla carta è un avversario, diciamo, debole per lui, e sicuramente un paio d'anni fa Nadal l'avrebbe vinto, insomma, ma non sarebbe arrivato al tie-break del quinto, avrebbe vinto prima. Questo non è più il Nadal che siamo abituati a vedere noi, questo è un Nadal che manda la palla molto, molto più corta, non carica il dritto, e quindi insomma si vedono tutti i suoi difetti di servizio, di rovescio, e questo avversario, questo Puglia, è insomma il giocatore più solido forse fra i giovani emergenti, è uno dei meno appariscenti perché ha un gran dritto, un gran servizio, però è uno dei più solidi. Gli altri, bene o male, se li andiamo a vedere uno per uno, chi per un verso, chi per l'altro, non stanno insomma seguendo le proprie aspettative, ecco, rispettando le loro aspettative. Kyrgios litiga un po' con tutti, Coric non cambia sempre allenatore, Zverev non è contento di quello che sta facendo, Tim si è visto ieri con Del Potro, sembrava un vecchio, sembrava lui Del Potro, non l'altro, sì. Già zoppicava dopo un game, cioè è difficile essere giovani. È molto difficile essere giovani nel tennis di oggi. Djokovic, Del Potro, Wawrinka, Nishikori, Murray, esiste un asso da pescare da questo mazzo? Ma guarda, io sono molto sorpreso da Wawrinka, perché obiettivamente sembrava un giocatore che non riusciva più a trovare, diciamo, il bandolo della matassa, e invece vedi, anche perdendo qui e là dei set, anche distraendosi, poi però finisce spesso i suoi match toccandosi la testa, sempre con questo dialogo che ha col suo allenatore Magnus Norman, uno svedese che lo ha ricreato, che ha fatto vincere la storia dello Slam. Ecco, io Wawrinka me lo giocherei, dopodiché il grande favorito è Mario. Senti, ti chiedo un ultimo regalo per i nostri ascoltatori. Una, visto che mancano, insomma, si gioca alle 18 ora italiana, manca poco al match di Roberta Vinci, che abbiamo detto prima seguiremo con grande attenzione. Regalaci una chiave di lettura di questo match. Come può vincere Roberta? Come deve giocare tatticamente questa partita? Guarda, in teoria dovrebbe giocarla tutta all'attacco, rischiando il più possibile costringendo l'avversaria, mettendo l'avversaria sotto pressione. Questo è quello che dice la tecnica e la tattica. Però io, conoscendo tutte e due le giocatrici, Temo fortemente che Roberto, a parte che bisogna vedere se ha le gambe per farla, una tattica del genere, Ed perché la faceva, non faceva una fatica incredibile. Io temo fortemente che riesca a farla e temo fortemente i passanti della Kerber. Per cui forse propenderei invece per una gara di resistenza, dando tutto, rifinendo la gara con il bastone invece che con la racchetta, sostenersi col bastone e provare, ecco, il variare di più, ecco, alternare. Cioè, prenderesti un rischio fisico, visto che non sta benissimo, sì. Rischieresti su quel fronte? Io rischierei su quel fronte con degli attacchi, sì, ma in controtempo, alternandoli, ecco, attaccare sistematicamente. Insomma, la vedo molto molto difficile, è dispendioso e pericoloso perché la Kerber è molto pesante. Grazie Vincenzo, come sempre. Grazie, sempre un piacere, Vincenzo Martucci, con cui chiudiamo questa puntata, ringraziando ovviamente Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzoni in redazione. E ragazzi, ci sentiamo domani, eh? Solito ora, stessi schermi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, stesso titolo, tutti convocati, ore 14. Pigia rosso, devi pigia stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!